Benvenute e benvenuti allo spazio redazionale del pomeriggio di Radio Onda Rossa, spazio redazionale che spesso si è occupato delle questioni europee e questa volta ci vogliamo occupare, anche questa volta, di quello che sta accadendo rispetto ai piani di salvataggio dell'Unione Europea che hanno coinvolto i paesi del sud Europa, in particolare Grecia, Portogallo, Spagna e anche Irlanda, ma in particolare ci vogliamo soffermare su quello che è successo, che sta succedendo in Grecia, dove la Troica ha approvato lo stanziamento di un nuovo assegno di 2,8 miliardi nell'ambito del terzo piano di salvataggio della Grecia, e naturalmente questo assegno non è stato un assegno in bianco, perché in contropartita il Parlamento greco ha dovuto approvare, questo è accaduto il 29 settembre, un nuovo pacchetto di misure per ottenere appunto questa tranche, la tranche di questo terzo piano di salvataggio, che è stato un piano di salvataggio controverso perché abbiamo assistito anche a una distinzione delle posizioni del Fondo Monetario Internazionale rispetto agli altri due partecipanti alla cosiddetta Troica, la Banca Mondiale e l'Unione Europea. Le misure che ha approvato il governo greco prevedono la privatizzazione delle municipalizzate dell'acqua potabile di Atene e di Salonicco e della principale società elettrica del paese, e ulteriori, come se già non bastassero, tagli alla previdenza, tant'è che i pensionati sono scesi in piazza e la polizia ha caricato circa 1500 pensionati che hanno protestato in piazza. C'è stata anche una polemica sull'utilizzo o meno dei gas lacrimogeni contro proteste di questo tipo, ma questa polemica ha solamente salvato la facciata. Queste privatizzazioni verranno gestite da un fondo, perché in questo il vecchio fondo per le privatizzazioni, che già era stato istituito e che era guidato da un tedesco, verrà sostituito da un nuovo fondo in cui confluiranno appunto queste società oggetto di privatizzazioni, e il presidente di questo nuovo fondo sarà un funzionario francese che era già assistente della signora Christine Lagarde, tuttora direttrice del Fondo Monetario Internazionale, quando era ministra delle finanze in Francia. E la confluiscono queste società in questo fondo, in modo che così il governo greco non ha proprio la possibilità di utilizzare le eventuali risorse che proverranno da questa vendita, da queste privatizzazioni, che saranno sicuramente sotto costo, una vera e propria svendita. Questo fondo controllerà anche la metropolitana di Atene, un'azienda che produce dei veicoli militari, e un fondo pubblico di gestione immobiliare. Diciamo che il modello è il modello del fondo Troy Handels, che era quel fondo che era stato costituito ai tempi della cosiddetta unificazione con la Germania Est. In pratica si è trattato di far confluire tutte le attività industriali e produttive della Germania Est in questo fondo, e poi che è stato svenduto alle società multinazionali. Diciamo che il modello sostanzialmente è quello. Ancora una volta si cerca un'operazione un po' più soft, perché era stato fonte di polemiche il fatto che questo fondo per la privatizzazione fosse guidato da un tedesco, tant'è che si era parlato anche del fatto che gli aeroporti greci fossero stati comprati da società tedesche. Questa volta è un francese, ma non è che cambia a molto. Diciamo che queste privatizzazioni sono il punto di arrivo, diciamo così, di questa operazione, di questa amara medicina per ottenere questa tranche di 2,8 miliardi che sostanzialmente non servirà a nulla. Ma questo non lo dicono solamente degli estremisti, lo dicono anche delle fonti autorevoli, e lo dicono anche esponenti del Fondo Monetario Internazionale, che già da tempo hanno fatto, fra virgolette, un'autocritica rispetto al comportamento nei confronti della Grecia. Infatti alla fine dei risultati, i risultati si sono viste, perché le politiche della Troica in 5 anni hanno di fatto fatto perdere quasi 25 punti di prodotto interno lordo alla Grecia. La ricchezza pro capite è crollata del 16%, il tasso di disoccupazione arriva quasi al 25% e il debito pubblico ha superato il 170% del rapporto con il PIL. E questi dati non cambieranno, tant'è che si ragiona sul fatto che nel 2050 il debito sarà ancora oltre il 100% del PIL, quindi sono sacrifici che di fatto sono inutili. Il Fondo Monetario Internazionale si sta sfilando, ha detto esplicitamente che c'è necessità di una ristrutturazione del debito, il che significa che comunque le banche che possiedono il debito greco si devono in qualche maniera accollare delle perdite. La ristrutturazione sostanzialmente significa quello, un taglio del valore capitale del debito. Ebbene, questo l'Unione Europea non lo vuole fare, la Germania non lo vuole fare anche in previsione delle prossime elezioni politiche, che potrebbero costituire insomma un problema serio per la Merkel. Di fatto però il Fondo Monetario si è sfilato da quest'ultima tranche, l'ultima tranche di salvataggio a cui parteciperà, e quindi c'è una divaricazione delle politiche rispetto a queste posizioni. Diciamo che sostanzialmente il Fondo Monetario Internazionale ha fatto un bagno di realismo, si sono resi conto che le politiche sono state fallimentari, che comunque impoverire ulteriormente la Grecia non porterà a nessuna soluzione. Bisognerà vedere se poi i rapporti di forza all'interno della Troica consentiranno questa operazione. Beh, allora, diciamo che sulla Grecia noi ci siamo occupati spesso. Se andate sul nostro sito www.ondarossa.info trovate una corrispondenza effettuata da Salonicco proprio ultimamente, proprio su questi temi che tu stavi sviscerando. Noi adesso facciamo una pausa musicale a tema, perché ricordiamo che in Grecia si muore anche di fascismo, i nazifascisti stanno dentro il Parlamento, parliamo ovviamente di Alba Dorata, lui è Killa P, ucciso ormai 3 anni fa, era il 18 settembre del 2013, ce lo andiamo a riascoltare e poi a seguire ancora rap con i Serpe in Seno, sempre a tema fuoco greco. Ξέρεις πως πάει, ναι. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά, να κουνιούνται σαν μια σκατήλα τα τραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα, μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά, να κουνιούνται σαν μια σκατήλα τα τραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα, μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Άσε για λίγο μισή κόντρες της ηλίκια, σε για λίγο τη μούρη στην άκρη και τα σταριλίκια. Πίστεψε με, δεν σου πάει το ταμπατζιλίκι, πουτάνα είδες μόνο στο πρώτο σου χαρτζιλίκι. Να σου πω ευκαιρία τώρα που σε βρήκα, πως έχω αλλεργία σε κάθε είδους γλύκα. Το μόνο που τους μοιάζει κομμάτι αυτή πίτα, με όλα αυτά ξενέρωσα κι απ' τη δικιά μου βγήκα. Δε με ενοχλεί που ο καθένας παίζει από ένα ρόλο, δε με ενοχλείς, δε σε ενοχλώ κι αυτό είναι όλο. Άσε με μένα, εγώ τα βάζω με την πένα, και μόνο σε αυτή θέλω να βγάζω αποθυμένα. Γράφω για εκείνους που δεν ζουν στην ησυχία, και την πόλη μας γεμίζουν με χρώμα και με υγεία. Για εκείνους που κινούνται σαν σκιές μέσα στο βράδυ, για τον καθένα που με νιώθει μάγκα είναι λάδι. Ακού, οι αλήτες μου βρισκόνται ναι παντού, από το Κανετού μέχρι και στα live των Who. Θα τους βρεις με τους οπαδούς των Vita Priest και στον Βορρά στα live να τα σπάνε με του Pill τα skills. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου, διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα, μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου, διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα, μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Κι αν δεν ήταν AD μας παράλληλοι, έχω και αλήτες φίλους που είναι μες στο family. Opa. Να τα πω στα βγουν ένα-ένα, τα σχόλια τα πικρόχωρα τους hater για μένα. Πριν βιαστείς θέλω να σου πω ρε μαγκαθός, αλήτες θα βρεις και μες στην κλίκα των λαντός. Αλήτες θα βρεις και στη γενιά που ακολουθεί, τι εντύρα ψωτός και λόγος απειλή. Στίγμα νεολαίος νέων κι αν εμιστήρας, παίρνουν έξανα την έποχη του ραπ και της μπύρας. Κι αν θέλεις να μιλήσουμε κι αλήθινες σχολές, τότε ψηλά τα χέρια όλοι μάγκες. Και μην βιαστείς να πεις πως τα έχω καλά με όλους. Τα αρχίδια μου σε γράφω εγώ, δεν γλύφω κόλους. Όποιος κουστάρει μαζί του και με κανένα, μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου, διάλεξα τον ρόλο που κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα, μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου, διάλεξα τον ρόλο που κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα, μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Οι πέτες. Δεν είναι μόδα, είναι σαν το ρίσκο που παίρνει τη μία ρόδα. Κοίτα λίγο γύρω σου, είναι παντού. Είναι εκείνα τα παιδιά που βγάζουν μπούστα στο παρκούρ. Είναι σαλάνια που ακόμα βάθουνε τρένα και σε inline άδες που έχουν γόνατα σπασμένα. Είναι οι skaters που δεν χρειάζονται ράμπα και οι beatboxers που το κάνουνε ακόμα μάγκα τσάμπα. Στους BMX άδες έχω βρει πολλούς αλίδες να κάνουν κόλπα μες στην πόλη μόνο τις νύχτες. Και σε κάποια πλατεία κάτω απ' τα γαλά έχω δει να χώνουνε ρήμες για πλάκα χωρίς αντάλλαγμα. Τα καλύτερα b-boys χωρίς αστεία τα έχω δει σε γηπεδάκια μπάσκετ χωρίς βραβεία. Κι αν εσύ ακόμα ψάχνεις το λόγο ύπαρξης, οι αλήτες έχουν τρόπο έκφρασης και αντίδρασης. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστάσεις από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστάσεις από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Compare come Filippi e Novatore, iconoclasta rap, liriche d'insurrezione. Con le tue cluster bomb non reggiamo il paragone, ma il parente artigianale rappa contro ogni prigione. Allo stato che uccide regaliamo dinamite. Nicola da grinder, piatto a sette vite. Società infame, non sai quanto ti costa. Evaderò dall'alto, Vassilli spalo costa. Genesi dannata, dalla coscienza armata. Prometo ruba il fuoco, io lo scaglio sulla strada. Il casto entro i quartieri, brillante annunciazione. Una stella danzante partorisce insurrezione. Ricorda il 6 dicembre, remember, remember. Le lacrime sul volto dell'Atene che non dorme. Forme disinvolte nella notte che non stanca. Traccia un'orbita di fuoco con la boccia sulla panca. Scatenami l'inferno nell'inverno di passione. Quando squarci sto grigiore con in mano un estintore. Lo spirro prende fuoco, forza autocombustione. Pensavi fosse un gioco, invece brucia la nazione. La giustizia mia sia vendetta personale. Se l'unica mia scelta muo' davanti allo scaffale. Sale l'odio dal cantiere, sulla strada, dall'ufficio alla borgata. Dimmi quale auspicio a sta giornata. Non trabaccare l'uscia, intanto bene brucia. Come nel deserto i carri armati di Falluscia. Oppure fate shopping che lo sparo è rimbalzato. Abbiamo la rivolta e sto Natale è rimasto. Andato. Pensa nelle bocce, illumina i sorrisi. Di chi assalta il cielo, merda, eccovi la crisi. Cricche sul tuo milite, mica verso lacrime. E brinda la tua morte, vandalizzo la tua lapide. Non serve, te l'ho detto, brucio di passione. Non prego, sono inetto, non aspetto il metadone. Fotto l'apatia, quando passo non arretro. Se negli occhi ho l'anarchia, onora il fuoco greco.